Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io vorrei parlare di fica. E a me non me ne frega niente. Buonasera, ascolti, io vorrei parlare là con questa persona che l'hai a fianco. Ma ascoltami un attimo, Parenzo. Ascolta, perché parli così della mia Calabria? Ma tu quando parli della Calabria tu ti devi sciacquare. Brutto pezzo di merda! Perché deve parlare male della Calabria, dei Napoli, di questo e di quello? Non hai detto che non c'è niente in Calabria, strunzo! Vai a schiattare, Parenzo, vai a schiattare! Oh, Giuseppe, una domanda te la posso fare? Dimmi, Lucio. Ma scusa, ma a sto stronzo chi cazzo l'ha messo a Radio 24? Io. Ah, tu? Io. Allora, Radio 24. Allora, amico mio. Brutto pezzo di merda. Oh, ciao, Cruciani. Sono Berna 69, un tassista di Firenze. Guarda, ho preso ora un cliente, si è scandalizzato perché ti ha sentito dire un paio di parolacce. Gli ho detto vai a vacchiare, scendi dai miei tassi. Vai, gli ho detto vai a mi rompere i coglioni. Bigotto, mare in mano, ragazzi. Meno male poi, ma dopo questo signore mi ha chiamato la Samantha e la Jessica, che dice ti conoscano, sono due trans che ho portato a Barberino. Perché mi hanno detto dai telefonagli, sì, ho detto che cazzo piglio la linea, invece l'ho presa. Riferisco quello che mi hanno detto, dici telefonagli. Mi sa che sei andato tu a trans, altro che. No, io a me piacciono trans, vedere il pisello nel corpo di una donna mi eccita. Pensa a te che elegante, perfetto. Pensa Parenzo, Dio mio. Stai tranquillo. Pensa stai tranquillo, pensa questo te Dio che buono, mondo, non esagerare. Comunque, non esagerare. Pensa a te che mondo. E a me non me ne frega niente. Naturalmente. David! Eccoci David! Qua, una copertina che, come dire, con l'approssimarsi della chiusura estiva definitiva, ci auguriamo, no, pagati, definiva, di pagati, no, di no, questa no. Trasmissione, no, mi no, pare no, che no. Ci sia un incedere sempre più terribile, mi pare, no. Di queste copertine. Un incedere ma che, sempre quando più mai, terribile, ma quando mai? Qui c'è la vera pancia del paese, chiunque voglia fare oggi un'analisi sociologica di quello che bolle in pentola, di quello che viene fuori dalle viscere, cioè dalla verità, non i tuoi salotti. No, no, nessun salotto. Sì, non i tuoi salotti. Me lo ha detto anche oggi pomeriggio. Strapagati, come dice Feltri. Strapagati, come dice Feltri. Tutto normale. Questa cosa qui me l'ha detto esattamente poco fa anche il dottor Antonio Caprarica, con cui mi sono intrattenuto per sorseggiare un caffè. Abbiamo fatto qualche discussione per capire come va il mondo. Ho perso un'oretta di ragionamento con lui. Lui mi diceva la stessa cosa. Ma ha detto, tanto che è disponibile a venire in questo Vespasiano, bene, come lo ha definito, come bene, lo ha definito. Ottimo. Ha detto che l'unico modo, sai, come sempre elegante, sì, certo, per capire l'Italia è quello di ascoltare questo programma immondo. Dico, guarda Antonio, ti ringrazio. E allora abbiamo sorseggiato un caffè, lui aveva preso un caffè freddo, con si è fatto fare anche una cremina sopra. Sì, ottimo, in un bar del centro, dove abbiamo passato un'ora a ragionare un po' di politica, di visione, di cose. Un'oretta abbiamo passato così. come passa il pomeriggio, no, David Parenzo, mentre qui noi piegati dai file da mandare, dalle notizie da sviscerare, dai personaggi da chiamare, dai freaks da reclutare, David Parenzo sorseggia un caffè al centro con il dottor Caprari. Sì, caffè freddo, però attento perché d'estate è freddo. Freddo. No, volevo dirti che non sia quella volgarità al pomeriggio d'estate e prendere il caffè caldo, ti prego. Comunque lo sai che alla fine Trump, anche a Trump mi sa che gli piace la vecchia, la signora Macron. Sì, io ho visto la battuta. Beh, che amico mio, devo dire la verità, che alcuni hanno criticato il fatto che la signora Macron, che resta un pezzo di figa incredibile, diciamo la verità, secondo me è un gran pezzo di figa, inutile. Sì, la faccia è un po' tormentata, d'accordo, è un po' rugosa, quello non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però, ragazzi miei, la scosciata non so dove, che è stata molto criticata al funerale di una Simone Veil, credo, una francese, morta da poco, una grande intellettuale francese, e la scosciata era fenomenale. Cioè, con il vestito nero d'ordinanza da funerale, amico mio, mi sono arrapato tantissimo. L'idea è una minigonna, si vedeva la coscia, c'ha delle gambe eccezionali. Ragazzi, non mi dite niente, voi mi mandate i messaggi, inutile che cominciate a mandare messaggi in cui dite no, questa qua è vecchia, è una figa pazzesca. Per l'età che ha, con quelle gambe è una figa mondiale. E lui non c'è niente da fare così. E poi non si vergogna di portare la minigonna, cioè di far vedere le gambe in un consesso con i fotografi, in una situazione in cui magari no, uno porta una gonna un po' più lunga. È fenomenale, è inutile, ragazzi, non me lo togliete dalla testa. Io non voglio entrare nel merito di quella veste, la Premier Dame. Per me era molto bella, senza entrare nel merito nei confronti che sai che io non faccio. A proposito, Carla Bruni, però, se devo dire, per no, me ma ragazzi, ma se non c'è paragone. E sai perché? Ma stai scherzando? Mi piaceva ma molto se dovessi anche Carla scegliere Bruni. Tra no, due davanti, un dettaglio che ma non te c'è piace. Dubbio, ma con la Macron tutta la vita, con la moglie no, di Macron no, ma ti do tutta anche la un vita. Dettaglio, mi piaceva Carla Bruni anche perché portava sempre le ballerine, e questo è un elemento, se vuoi diamo un titolo agli amici di libero.it. Le ballerine a una donna, portate, sì, ma lei già sono detto. L'aspetto, cioè, lo ripetiamo, cioè, così diamo il titolo ballerine, a Libero. Ballerine e cavigliere, secondo te ti fa rapare moltissimo. Sono ballerine la parte e una cavigliera probabilmente più eccitante, cioè, sì, ma ballerine, allora, Parenzo, due punti, mi arrapo, ecco. Con ballerine e cavigliera, no, non ho detto la parola. Beh, sì, ma lo traduco io, posso, lo traduco posso io. Provare piacere estetico, una diciamo, piccola piacere erezione estetico. Diciamo una piccola, no, erezione su questi dettagli. Tu sai che la maggioranza silenziosa non. Sì, però vorrei andare a una tua amica che è la signora Chieng, ex ministro dell'inutile ottimo ministero Chieng. Per che cos'era il ministero dell'Italia della... Ti dico di più, l'Italia dovrebbe ringraziare la Chieng, cioè no, l'Italia, ragazzi, ogni dovrebbe ringraziare la Chieng, non ne posso Chieng. Più dai, cioè, e a il me governo sta anche letto, ovviamente Chieng, per averla messa, perché ride, quando ride mi sta simpaticissima, no, la Chieng è una donna, è un quando medico, si è una donna, ridere, è una straordinaria, no, ma qua è un medico, adesso non ha mai fatto un cazzo, diciamo, cosa c'è, ma non hai mai fatto un cazzo, però scusami, tu che parli dalla, ma io non l'ho capito, ma come fai, di questa signora qua è venuta da un paese dell'Africa, era una delle tante sorelle di una tribù numerosissima di 20-30, non mi ricordo quante fratelli, dovrebbe farti ragionare, è venuta in Italia, appunto, straordinaria donna, venuta in Italia, studiata, preso una laurea in medicina, poi sì, dopo ha fatto la sua carriera in quel mondo lì, a un certo punto è stata chiamata a ricoprire il sommo incarico di ministro per l'integrazione del governo inutile, Letta, inutile e da lì la sua da lì è diventato il nemico dell'Italia, cioè ti rendi conto, allora, che però, anziché ringraziarla, ne ha detta una grossa, ha detto aiutiamoli a casa loro, sì, non va bene, dunque contro Renzi, io dico accogliamoli tutti, molto, ragazzi molto miei, coraggiosa, amici molto coraggiosa, della Zanzara, ascoltatori, camionisti, coraggiosa, tassisti, gente normale, maggioranza silenziosa e non. La Chieng dice, mentre stanno arrivando altri 10.000 qui in Italia, nei barconi, accogliamoli tutti. L'ex ministro Chieng, origine congolese. Non ho detto niente di particolare, origine congolese. Quando io guardo quelle persone e rispondo con quella frase, è chiaro che è come se io volgesse lo sguardo da un'altra parte. La questione oggi è un'altra. Cosa facciamo di questo? Io così risponderei, accogliamoli tutti. accogliamoli tutti, dai, su, David. È una cosa vergognosa, non si può dire una cosa di questo tipo. È vergognoso, dai. Assolutamente, anzi, è vergognoso, essere... dai. È L'Europa, vergognoso. L'Europa dovrebbe essere questo, cioè insieme. Ma questo... dillo, sono d'accordo con la Chieng. È inutile, perché ti tiri dietro? Sono d'accordo con la Chieng. Vanno accolti, vanno create delle accolti. Figure professionali per l'integrazione. Allora, l'immigrazione darà lavoro anche agli italiani. Intanto a Kona, che è quel paese dove c'è un centro per immigrati, i richiedenti felicità, come li chiedi tu, bravo, come li chiami tu, bravo, non protestano per la qualità della vita nel centro. Senti. Prima di dire qualcosa, buongiorno a tutte le gente, ringraziamoci tanti. E noi vogliamo la chiusura subito o sistematico di questo centro, perché la vita è che meno qui le gente è molto male, ok? Non è possibile di accettare la qualità della vita che loro fanno qui. Un altro dice: ci sono 150 persone, 5 bagni, non va bene. 1300 un po' persone che vivono nella questo centro. 150 persone nella ogni tenda. Tanti sta molto male, perché non è possibile i giovani di 150 persone nella ogni tenda che hanno 5 bagni. 5 bagni per 150 persone. Non è... 150 persone, 5 bagni. Fammi fare ma un calcolo. Ma mi pare che abbia detto una cosa molto intelligente. 30 persone a bagno, 5 per 3, 15. 30 persone a bagno. Vabbè, no, mi sembra almeno una cosa così dici, vabbè. 30 adesso persone a bagno. Adesso chiameranno... qualche imbecille che proverà a chiamare. Non mi sembra una adesso. Situazione 30 persone a bagno, mi sembra umano? Una situazione da campeggio quando vai in campeggio. Ma se anche vai i bagni del sole, guarda, 24 ore pure... dei bagni non mi interessa, ma, lo sai, io scusami, faccio anche a meno, per anche cui non è un problema. I bagni del sole 24 ore, che sicuramente tu hai detto più volte non essere puliti, perché i giornalisti notoriamente lo hai detto più volte. Radio, ho detto, sì. Allora se anche lì che c'è un afflusso non di migranti ma di giornalisti intellettuali sono sporchi, perché pretendete che i bagni, ma come quando vai nei campeggi, che pretendete che i bagni dove invece stanno i migranti siano puliti se sono in 30 per un bagno? Ma no, ragazzi, 30 ma per un bagno, però è una situazione da campeggio, cioè quando io vado in campeggio c'è un bagno ogni 30-40 a seconda del campeggio, è normale, forse anche di più. Cioè, qual è il problema? Non ho capito che vogliono. Non ho capito che cosa. Sono richiedenti asilo? Sono richiedenti felicità? È una situazione di transito. In situazione di transito non c'è un bagno. Cioè, non c'è la doppia. Non c'è la doppia col bagno interno. Eccolo lì. Cioè, non eccolo. C'è la doppia eccolo. Col bagno interno. Eccolo, è populista. Eccolo. Ma che? Eccolo che è populista? La realtà. Dalla vostra parte proprio. Cruciani, la moglie di Macron è un cesso. La Zanzara. Hai visto Macron? Hai visto? È meglio lui della Le Pen. Ciro. Ciro. Ciao Ciro. Senti chi c'è alla radio. Alla radio c'è papà tuo. Ciro di papà David. Ciao. A questo gioco al massacro io non ci sto. Ah, è spuntato fuori anche Ciro, eh! È spuntato fuori anche Ciro. Guarda, da Napoli. Questa è la più formidabile macchina del fango, perché puoi è inventare qualunque fuori, cosa. Io a Ciro non ci credo. Credo nella relazione all'epoca extraconiugale. Ecco. Tra il signor Parenzo e una tale Anna da Napoli, che ma è venuta con una signorina da Napoli. A Napoli l'esistenza di Ciro, quello sono no, stato quello un paio di volte per lavoro. Ma non c'è bisogno, non dai, conosco nessuna. Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Questi miserabili che chiamano dicendo che mi hanno visto con dei calzoni bianchi, poi che giravo, no, blu. Ma no, ma dove. ti segnalo che c'è un paese, sì, una piccola frazione che noi già conoscevamo, peraltro, che si chiama Mussolini, sì, vicino Padova, tra l'altro. Che ne facciamo di questa frazione? Bisogna cambiare nome? Oppure quel cartello lì d'ingresso alla città potrebbe essere una apologia del fascismo? No, assolutamente. La città si chiama Mussolini. Io sono siete patetici. No, no, ma nessuno vuole cambiare i nomi alle città. Nessuno vuole cambiare i nomi alle città. Certo che quel bagnino di quello che ci sto, la differenza fondamentale qual è? Sì. Che quel bagno di Chioggia non è stato fondato da Mussolini, quindi quello c'è una lapide che ne ricorda. È un simbolo ma di libertà. Ma è semplicemente un idiota che per fare due soldini in più e farsi pubblicità o non so per quale altro astruso motivo ha messo dei cartelli dicendo è qui c'è il regime fascista. È un simbolo di libertà. È un cretino e in quanto cretino, avendo commesso un reato che si chiama apologia del fascismo, va punito. Lascialo decidere ai giudici. È un simbolo di libertà. Io lo voglio abbracciare fortissimo. Scarpa, già ti ho sentito per telefono. Ti abbraccio fortissimo. Lui, tu manco sai come si chiama questo qua. Gianni Scarpa. Scarpa. Scarpa, sì, Scarpa. Ecco, bellissimo. Ecco, nome adatto, appunto. Scarpa. Scarpa, Scarpa questa mattina, agora. Pensavo dicesse. Onesti come lui in Italia non ce ne sono mai più stati. Disciplina, ordine, pulizia. Ho tolto i cartelli perché ne metterò di migliori. Io sono per la disciplina. La simpatia per Benito Mussolini nasce che, essendomi documentato nell'arco dei miei 64 anni benissimo, ho fatto uso del manganello una marea di volte. Dov'è che ha fatto uso del manganello questo qua? Bisognerebbe capirlo. Nella però sua testa. Vabbè, comunque, in ogni caso, poi spancula Salvini, Scarpa, perché dice le spese me le pago da me. Perché Salvini si è offerto di pagare le spese processuali, lui lo spancula. Subito si butta a pesce quell'uomo, pensate. Salvini vuole pagare le spese? Ma che cazzo me ne frega Salvini, me le pago io le spese. E che spese devo avere, non ho fatto un cazzo. Le spese devo avere, non mi hai capito io. Salvini parla di lei. Tutti. Ma cosa mi interessa a me di Salvini, cosa mi interessa a me di chi parla di me? Io sono, non me ne frega un cazzo. Di nessuno dei politici. Va bene, Marco da Lecce, vai Marco. Marco da Lecce. Ciao Cruciani, Parenzo. Rivoltacci vostri come andare in ferie. Anche no? I suoi. Gallipoli. Stiamo sudando sangue, stiamo tirando fuori la merda per lavorare e voi tra un po' ve ne andate in ferie. Allora, Cruciani e Parenzo, non permettetevi di abbandonarci a luglio agosto. Noi vi aspettiamo a Gallipoli. No, allora, Marco, che succede là, Parenzo? Che hai fatto? Hai ruttato? Che no, hai fatto? Semplicemente sentendo questo invito a non andare in vacanza dalla radio, ho mosso il microfono in segno di protesta. Per no, ma che un protesta? Danno aziendale. Che guarda, protesta? Ecco, vedi? No, fermo, un danno. Fermo, un danno. Che fai che cazzo dice, Parenzo? No Marco, allora, noi andiamo via il 28, andiamo via il 28, amico mio. Prima, andiamo via prima. Vi aspettiamo a Gallipoli a fare la Zanzara Beach. Ma perché? Che succede lì? Perché succede? Pieno... Sì, perché Gallipoli è una città libera, una città piena di eccessi, di sesso, di amore, di umori, di squirting anche. Ci sono questo ore è buono, di squirting d'estate. Questo è buono, questo è buono. Tu sì, dici sì, che sì, sì, è una città dove aperta, Gallipoli, città sì, aperta, Gallipoli, bella città. Bella, amico mio, non si può fare. Lara da Verona, vai, no. Lara. Buonasera. Vai, dimmi. Niente, volevo parlare al signor Parenzo, scusami. Sì. Allora, inizialmente mi era anche simpatico, perché vi ho conosciuti tramite vabbè, il mio allora compagno che vi ascolta sempre. Sì, certo. Però io volevo dirgli una cosa. Sì. Ma perché deve dare sempre del cretino, dello stupido alla gente? Beh, molte volte le persone, alcune volte le persone sono stupide. Alcuni sì, se alcune lo meritano volte, però altri bisogna anche lasciarli parlare. Vabbè, Lara, e comunque che vuoi, bisogna dai, rispettare dì la propria opinione. Noi la non rispettiamo un cazzo. Dimmi. La deve smettere di continuare a difendere rom, extracomunitari e quant'altro. Sono stufa, non lo posso più vedere. Cazzo, accendo la televisione e me lo trovo anche su Italia 7. Italia basta. 7 è un'altra cosa, ma basta cosa, ma che è? C'è un comizio. Deve sparire. sparire, deve sparire, non lo voglio più vedere né sentire, sì, quell'uomo, mi ha rotto, basta. Questo è giusto, questo non è sbagliato. Ma, scusa, ma il tuo fidanzato dov'è? Il tuo ride fidanzato? Pure, capito? Ride. È qui che sto ascoltando, che ride, fermo, come un fermo, fatto. Lei fermi sa, tutti, bella signora, fermi, secondo me lei è una signora anche potenzialmente elegante, in realtà si fa corrompere da questo clima che c'è in questa trasmissione, ma lei in realtà è donna dalle brocche di vetro. Non credo dalle, proprio, dai tovaglioli, non credo, questa di qua è da lattina, dalla... è da lattina di birra a tavola, che è un'altra cosa che cui bisognerebbe discutere. Lattina di birra, no, a tavola, no, fermati. Fermo, la lattina, fermo, di birra... fermi tutti. Ciro, a proposito, io avevo fatto quella discussione con Paco. Paco che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. Eh già. Sembrava la fine del mondo. Sono ancora qua. Ok. Ma sono ancora qua. E io sono ancora qua. Bella. Bella. Bella. Io sono ancora qua. Bella, bastardo che siete. La maggioranza silenziosa è compatta con Paco da Belluno. Vai, vai, spada di fuoco. La zanzara. E a me non me ne frega niente. Il mio ragazzo scarica i podcast della Zanzara ogni giorno e mi costringe ad ascoltare metà puntata la sera prima di addormentarsi e metà puntata al mattino appena svegli. Non ne posso più. Domanda per il fenomeno Parenzo e il fenomeno Fiano. Se dico Mussolini non ha fatto solo cose cattive, è un'opinione o è apologia? Se è apologia, quindi devo essere arrestato per 6 mesi. Come minimo, dimmi tu la follia. Però se dico i comunisti hanno fatto bene in Russia ad ammazzare 10 milioni di persone, perché erano 10 milioni di persone che si mettevano tra loro e il loro obiettivo, questa può essere solo un'opinione, non è apologia. Non merito di andare in galera perché sono un coglione, perché sono contento che questi non abbiano ammazzato 10 milioni di persone. Capito l'ipocrisia, testa di cazzo? Parenza, hai capito? Testa di cazzo. Te lo ripeto 2 volte, perché magari sei duro d'orecchio e non hai capito la prima volta. Testa di cazzo. Allora, a studiarsi che cosa vuol dire apologia. E ma quindi mi sembra, a quel punto mi sembra si daranno che nel da paese, soli una risposta. Mi sembra che nel paese c'è grande, grande consenso. No, mi sulla pare mia che posizione. Nel paese, grande, no, grande consenso. No, grande, nel paese, grande consenso. No, il paese ritiratevi, per fortuna ritirate questa cosa. Proposta. Il signor Fiano dovrebbe prendere quella proposta e ritirarla. Ritirare la proposta folle. La proposta folle punta ad inasprire una legge che si sbagliato, chiama Scelba. Sbagliato, già ci sono le leggi che dovrebbero andate essere tolte. A chi era Scelba. Ma chi se ne frega annoiate, di chi mi annoiate, andate su Wikipedia, fate qualcosa, Gentilini, leggete. Gentilini. È venuto fuori Gentilini, Gentilini di nuovo. Beh, vedi, quando sente l'odore, quello come il sangue, come sì, il vampiro, no? L'odore come di il fascismo. Vampiro quando sente il sangue, si burgo, lo sente parola fascismo, si rianima subito, Gentilini era scomparso. Che appoggia ovviamente il mio nuovo mito, il bagnino di Chioggia, il signor Scarpa. Via. Ti ammiro perché finalmente hai sposato il Vangelo secondo Gentilini, che dice ordine, disciplina e rispetto delle leggi. E allora questa forma fascista è una forma di reazione per riportare l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi anche sulle nostre coste, che non diventino soltanto approdo di delinquenti, di droga, di 'ndrangheta e anche di personaggi che hanno avuto l'inciuccio fra le gerarchie ecclesiastiche e il comunismo. Cosa c'entra? Questa roba sono qui parole in libertà, capito? Poi cos'è questo cazzo di Vangelo secondo Gentilini, peraltro? Che lui dà per scontato che la gente debba conoscere il Vangelo. Io conosco il Vangelo secondo Matteo, ma non il Vangelo secondo Gentilini. Ok, ragazzi, c'è una notizia abbastanza drammatica di oggi. Una signora di 63 anni, Maria Assunta, è stata massacrata a colpi di cellulare durante una drammatica rapina a una stazione della metropolitana a Roma, la stazione Barberini. colpi di cellulare sulla faccia. Madrid è una stazione in centro, io la conosco colpi molto bene. Colpi di cellulare sulla faccia, massacrata in metro dalla Rom. Una nomade di 9 anni aggredisce un'anziana. Beh, colpi di cellulare sulla faccia per derubarla. Poi la lascia a terra nel sangue. Cioè, una nomade di 9 anni. Dico solo questo. Sì, ma è una dico solo questo e basta. Dico solo. Cosa vuol dire? Dico solo. E lascio alla gente i commenti. Ma cosa lascio? Ma che commenti? Ma la gente che commenti deve fare? Cosa vuol dire? Quanti episodi di violenza ci sono nelle urbe lascio metropolitane? Alla gente così. I commenti. Lascio ma che commenti alla voi lascio? Cosa vuol dire? Lascio alla gente i commenti. Anzi, voglio riprendere. No, voglio riprendere da Lara. Chiameranno i soliti. No, voglio riprendere da Lara. Cara che Lara, dimmi tutto. Ciao, carissimo. Capito? Non ha nemmeno un sussulto, Parenzo, quando sente queste notizie qua. Ma cosa, non che sussulto? È una storia di cronaca terribile. Ma cosa bisogna dire? No, che è una criminale. Una cosa bisogna dire di in più? Cronaca così generalizzata. Purtroppo sappiamo benissimo che queste persone ci nascono con certe abitudini. Certo, ma i criminali loro esistono vivono, in tutte le società, vivono, in alcune insegnano. Sono anche al governo, peraltro, delle dittature, i criminali. Ma vabbè, adesso andiamo su altro tipo di discorsi. No, faccio per dire che non è che la criminalità viene eliminata improvvisamente perché però Salvini diventa ministro degli interni. No! Lara, è questo che voi alimentate, dimmi, questo i mito. I Rom per te cosa sono i signori questo Rom? Questo mito palingenetico, no, chiedo scusa se ho usato conosco, questa parola. Io ne conosco di persone Rom, non sono tutti delinquenti, però la maggioranza vive in un altro modo diverso dal nostro e allora non gliene frega niente di integrarsi come facciamo noi o come viviamo noi. Ma voi avete un mito. Guardi signora, ascolti bene queste parole, avete un mito palingenetico per cui immaginate molti sei fissato con questa parola. Sì, adesso parlo come Fusaro. Voi immaginate che l'arrivo del condottiero Salvini al Ministero degli Interni ma possa radicalmente simpliciter cambiare le sorti di questo paese. Io Salvini non lo posso vedere. Come mai? Lo odio, come non mai? Mi piace perché è falso, è una persona falsa. Ma che ne sai che è falso adesso? No, falso. È una persona falsa, non mi piace, mi viene la pelle d'oca quando lo e vedo. E chi ti piace invece? Chi ti piace? Mi piaci tu. Vabbè. Amore mio, tesoro. Tesoro, io credo. Voi col tuo fidanzato, per esempio, ogni è qui tanto. È il mio fidanzato, eh? Ecco, ma ogni tanto scopate con la zanzara in sottofondo? Ascoltami, l'ascolta tutte le sante sere prima di addormentarsi. Ecco, ma durante ogni tanto vi è capitato di fare sesso ascoltando la zanzara? Mamma mia. Magari dopo che l'ha ascoltata, sì. No, ma prima, durante col sottofondo, con la voce di Parenzo in sottofondo. No, con questo con accompagnamento Parenzo, in no. sottofondo, Parenzo che polemizza. Forse magari con la tua bellissima voce, magari, ma con capito. Quella di Parenzo no. Cioè, potete questa fare, signora potete... qui si presta pure a rispondere, ma guarda che il paese ormai è degradato. Lei per caso squirta, signora? Pure. Ma sai che non ci riesco. Sono problemi, cara. Effettivamente sono problemi. Sono problemi. E infatti, guarda, volevo chiederti, ma come si fa? Come si fa? Amica mia, amico, come si fa? Uno ce l'ha come dote naturale, poi ogni tanto l'uomo può dare una mano, signore, il tuo fidanzato non è capace. Allora spiegagli qualcosa dire, a te. Non, è, io... non lo so, io non sono un grande maestro da questo punto di vista, non è capace di andare a toccare delle parti molto sensibili interne da cui esce quel liquido favoloso, capito? Allora glielo dico, ti do un bacio, glielo faccio presente, ciao, un bacio, ciao. Allora ragazzi, vi racconto una storia che vi fa incazzare sicuramente chiama tanto. Chiama certa tanto, gente, tanto, guardi tanto, non mi capaciterò mai della gente. Allora, che chiama. Allora, tempo fa è stato ucciso un vigile, omicidio volontario da parte di un signore, che si chiama Remi Nikolic, di chiara origine, non c'è bisogno che ve lo dica, di chiara origine, Remi Nikolic. Omicidio volontario, vigile urbano investito con una macchina. Credo che abbia avuto 16 anni o giù di lì. Era minorenne all'epoca. Esce di carcere dopo 5 anni e rotti. 5 anni. Secondo i giudici vuole cambiare. La famiglia, ovviamente, è imbufalita. Sono tutti incazzati. Persino il comune, è successo qua a Milano, persino il comune dice che è una vergogna. Il sindaco pure dice che è una cosa assurda liberare uno dopo 5 anni e mezzo per omicidio volontario di un vigile urbano. Questo è il punto fondamentale. quanto vi fa incazzare questa cosa? Quanto fa incazzare la gente normale questa roba qui, Parenzo? Quanto fa incazzare la... Ma cosa vuol dire la è gente cambiato, normale? Bisogna ma vedere cosa le carte del processo, bisogna capire cosa ma c'è, dai, cosa... non è su. Tutto aizzare gli umori più bassi. Dorri Goldi che dice: ho visto fin dal primo giorno l'angoscia e la disperazione di Remy. Ma non è Remy, quello è Remy, forse si è sbagliato con Remy là dei Dolce fumetti Remy, del, Dolce con Dolce Remy. Remy, questo è uno che ha ammazzato un vigile urbano, ma vuoi che trascorrono almeno 15 anni di, dico almeno 15 anni di galera, anche se era minorenne, minorenne aveva 17 anni. Non che... conosco la dinamica, dai, non so su. Quanto è stato condannato con sentenza definitiva, non sappiamo. Andiamo come a Roma, ha trascorso Francesco, dai. Questi 5 anni sì, in carcere, ma sei stato bravissimo, magari ma chi c'è se la buona frega? Condotta, va bene, io comunque no, mi fido di Don Rigoldi che si occupa del recupero dei detenuti. Vabbè, tu ti fidi di Don Rigoldi, benissimo. Allora ti dico una cosa, la buona condotta è una cazzata. Basta pure con questa storia, sì, bisogna eliminare questa cosa. La legge Gozzini, assoluta, no? Buona condotta, come, devi, come ti devi comportare in carcere? No, ma spiegami, in carcere come ti devi comportare? Ma la buona condotta è anche ma quello è una che follia, fai, in carcere ti devi comportare bene. Ma cioè, che... non, è dato per scontato che ti comporti bene. Che roba, però sì, tu hai la diminuzione della pena per la buona condotta. Una cosa incredibile, Francesco, certo, da Roma, follia. Francesco, vai. Oi, ciao, cioè, ragazzi, ti premiano per quello che devi fare. Bah, Francesco, vai. Ciao a tutti. Proprio stravolge lo stato di stavo diritto, tornando a studio, stavo a Barberini, ho visto questa scena della zingara di una signora che camminava a 2 metri. Attenzione, fermi tutti, testimone? Inchiesta, beh, in mezzo, ce l'avevo a 2 metri, appunto, stavo dietro questa è intervenuto? Anziana. Fai raccontare un secondo. Lei cosa ha fatto? Lei è intervenuto, si è fatto un selfie e l'ha mandato dalla vostra parte? Cosa ha fatto? È sentiamo. Chiusa dalla vostra parte, non è in ecco, allora. Non lo so, o l'ha vai, mandato Francesco, dove? Dimmi. Allora... Parenzo non interrompe se ci sì riesce. Ma che ha fatto lei? Ha visto ma sta fallo, scena? Fallo parlare no testimone dai. Oculare il supposto testimone Parenzo, oculare dai, sentiamo una volta, sentiamo no. Il supposto testimone oculare. Vai, Francesco, il supposto. Dimmi. E in ogni modo io stavo dietro, ti dico, un par di metri da questa signora. Che ore erano del giorno? Beh, era 4:30, tornavo dal tribunale per andare a studio, quindi. Dunque? E dunque vedo 2 o 3 pischellette che vanno verso sta vecchietta, insomma, ho visto poi dal giornale sui 60 sì, anni sì. Quello che è, insomma, provano a tirare un po' la borsa da dietro, questa fa resistenza la signora, e questa allora arriva una piccolettina da davanti, avevo piccola, c'era una pischella, una zingarella del cazzo così, e comincia a brandire botte in faccia alla vecchietta, ma una cosa di una violenza che io in un secondo, poi da zero a violenza totale in un secondo, sono rimasto così basito. Lei non ha chiamato insomma, neanche la polizia, niente, ha fatto le foto, che ha fatto lei? Senti coglione, aspetta cosa un ha attimo. Detto? Ha chiamato Salvini, che ha fatto lei allora, in quel momento? Ma che c'entra Salvini? Mamma mia, ha chiamato Casa allora, Pound, allora, che ha fatto? Patetico, sei patetico. Francesco, ti devo avvertire ha di una cosa. La adesso ti devo fermare che c'è la pubblicità, però te resta qua, resta in linea, ti devo avvertire una cosa, perché se uno chiama e dice sono testimone oculare di una cosa che ecco. È successa, le cazzate non si possono dire. Io ci perché credo. Poi verrà convocato io ci credo, dalla magistratura. Fermo lì, mi fermo, certo, fermo, bene, fermo, lì, fermo lì, fermo lì. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Ma porca puttana, ma le foibe, ve le dimenticate? Scusa Cruciani, e dedicare a quel delinquente di Carlo Giuliani piazze, vie, cazzo, non è un'apologia al terrorismo che è questa? Allora dai dai dai Parenzo, sei felice che hanno liberato il rom che 2 anni fa ha ucciso il vigile a Milano? Amico rom. David? Non ho mai difeso i criminali, come tu sai e come tento di ripetere da 6 anni a questa parte. Evidentemente lì è stata applicata la legge. Ma che cosa vi devo dire? È evidente che quel morto nessuno lo restituirà alla famiglia. Di che parliamo? Ho capito, ma non è uno scandalo, dai, è una vergogna, dai. Ma 5 anni scandalo? E mezzo l'applicazione in galera, della legge. 5, ma non mi interessa, è una legge sbagliata, evidentemente. Se permette a un assassino di andare fuori dopo 5 anni e mezzo, dopo aver ammazzato un vigile urbano travolto con una macchina, è una legge sbagliata che va cambiata. È inutile che dicono che in carcere sin dal primo momento. Dorri Goldi sostiene che quello è cambiato, visto i segni del ravvedimento, non gliene frega ma un cazzo. Ma non è Dorri Goldi che ha deciso, è un tribunale di sorveglianza. Ma no, ma per spiegare Il racconto di Francesco. Tu lo sai, ma siccome tu, come dire, butti benzina sul fuoco. Ma io non butto benzina, sono incazzato per queste cose. Francesco di Roma, dai. Francesco, sull'aggressione da parte dell'applicazione della legge. Ma non mi interessa, è una legge sbagliata. In uno stato di diritto. No, non sono felice, sono triste. Francesco, vai. Oh, Cruce. Stavo a dire, vabbè, allora la vecchia va a terra e neanche due minuti sono arrivati due penso guardie giurate, come cazzo si chiamano. Però quello che ti dico è che io quando vado pure per lavoro a Termini e prendo il treno è pieno di stingri del cazzo, ci stanno i militari fuori, non fanno un cazzo, hanno il mitra spianato, si grattano, cioè non è, è assurdo, vabbè che Roma è una merda in questo. Io non ho capito, è arrivata cioè in questo gruppo di zingare che hanno aggredito questa donna di... prima c'è la prova del furto con strappo, come si dice, non ci riescono, eh. E allora questa, brandendo il braccio, gliel'ha dato in faccia, aveva il telefono che ha un corso, diciamo un'arma in questo caso impropria, gliel'ha dato sul grugno. Ora, al di là del merito della vicenda che io ho sentito per puro caso, ma io ho visto spessissimo a Termini un porcaio di merda di questi zingari che fanno il cazzo del comodo loro. No, quello si sa, tra l'altro c'è una notizia dell'altro giorno, una che ha 14 anni di condanne, siccome porta con sé sempre un certificato, ha un figlio con meno di un anno, una Rom, e ha un certificato, un'ecografia che è di nuovo incinta, non va in galera e continua a rubare, 14 anni di condanna. Vabbè, sul groppone, cioè questo è il punto. Ci sono delle leggi assurde in Italia, assurde. Fermo lì. Ciao Francesco, ciao. Vabbè. Allora, capite, io proverei a chiamare, però, a proposito di questa vicenda che mi ha fatto veramente molto incazzare, cioè la vicenda di questo Nicolò Savarino, un poliziotto, un vigile urbano, se non sbaglio, che è stato ucciso, omicidio volontario, fu la condanna per Remi Nikolić, all'epoca minorenne, non era maggiorenne. Remi Nikolić, proverei a chiamare il fratello del poliziotto per capire un po' come hanno preso la liberazione. L'ha presa malissimo, come che l'abbia presa. Si chiama Carmelo, ovvio, Carmelo Savarino. E anche ha ragione dal suo punto di vista. Pronto? Sì, parlo con Carmelo Savarino? Chi è, scusi? Sì, buonasera, qui Radio 24, la disturbo? No, mi dica. Salve, io volevo capire una cosa. Cosa ne pensava lei, che è il fratello, mi sembra, no, di Nicolò, sì, della vicenda della scarcerazione di Nikolić, di Remi Nikolić? Sì, cosa ne penso? Cioè, qual è la sua sensazione? Non lo immaginare. Sì, no, ma lo immagino, volevo sentire dalla sua voce. Guardi, proviamo solo amarezza e disgusto per quello che è successo, per quello che è stato tutto l'iter giudiziario di questa vicenda. Guardi. Ma perché? A distanza di 5 anni è già uscita. Cioè, lei pensa che una cosa del genere, uno non è possibile che esca dalla galera dopo 5 anni e mezzo? No, non è possibile, scusi. Dopo aver ammazzato pure un poliziotto. Senta, ma alcuni dicono che hanno visto un percorso di recupero. Lui ha mai chiesto scusa? No, ma assolutamente mai pentimento, mai scusa nei confronti della familiare e niente. Io infatti per questo credo che stanno facendo un enorme sbaglio i giudici a lasciarlo in giro, perché ancora, cioè, questo non è una persona da far recuperare, perché non ha neanche la volontà di recuperare. È stato solo pilotato dai suoi avvocati, sicuramente, di comportarsi così. Tanto adesso che uscirà, secondo lei dove andrà? Non lo so. Beh, dove andrà? Secondo lei dove andrà? Non andrà di nuovo in quel contesto familiare da dove è cresciuto? Sto ragazzo è diventato il dio onnipotente adesso? Cioè, mi sembra, dalla sua voce mi sembra che lei sia molto, molto, non dico amareggiato, proprio incazzato, se si può usare una parola. Per sono incazzato nero, se gli devo dire pure quello, sono incazzato nero. Ma avete intenzione di fare qualcosa? Avete intenzione di fare qualcosa come famiglia? E cosa devo fare ormai? Ormai non c'ho nulla da fare io. E cosa? Io spero soltanto che tutto il male che ci stanno rivoltando, anche i stessi giudici, che gli viene girato a loro poi. E non mi resta solo che pregare al Signore e sperare che tutti i giorni pregherò che gli succeda qualcosa, quello che è successo a noi. Sia a lui, sia a tutti quelli che l'hanno aiutato, anche gli stessi giudici e avvocati che lo stanno aiutando. Vabbè, fanno il loro lavoro, però, cioè difendono l'imputato, come avviene in tutte le democrazie. Capisco che provochi dolore questo, però... No, gli avvocati, diciamo, fanno il loro lavoro e i giudici avranno deciso in base a quello, alle relazioni che ci sono in base alla legge. Certo. No, i giudici non hanno fatto nessuno, perché se parliamo di leggi, non i giudici hanno fatto proprio il contrario di quello che dice le leggi. Perché se vogliamo parlare di omicidio volontario, già anche per un minore stesso, parliamo di 26 anni. Già questo alla prima udienza gli hanno dato i 16 anni. Quindi già non è che stiamo parlando di leggi, sì, perché le leggi ci sono, è che i giudici le devono far rispettare come si deve. Cioè, tutto lì. Perché in primo grado la condanna era stata di 15 anni, mentre poi il PM gliel'aveva chiesto i 26. Ma scusi, lei pensa che davvero uno non possa recuperare dopo 5 anni di carcere, non possa essere cambiato, come dicono? Dorri Goldi dice che è cambiato questo ragazzo. Bah. Ma Dorri Goldi può dire quello che vuole, Dorri Goldi vede solo soldi nei confronti di questo zingaro. Ma nessuno, quindi non è che può dire che è questo. Questo non è vero, mi scusi, mi permetto semplicemente di... Perché vede solo soldi? Perché vede solo soldi? Ma secondo lei perché? Allora, se una persona che va in recupero va da lui, che succede? Non prende soldi, assolutamente. Beh, sì, no, non prende soldi, Goldi, no, si occupa, non le prende, no, soldi. Tutti questi che si vanno occupa, da loro a fare assistenza sociale. Lui lo, si occupa del recupero e beh, lo fa in modo assolutamente decoroso. Qualcuno i soldi gli darà. Beh sì, contributi. Goldi si occupa di questo, del recupero, per fortuna, del recupero delle persone, sì, che hanno recupero avuto un percorso questo gli hanno dato anche un appartamento. Adesso non so che è lei che sta parlando. Ma non gli hanno, io sono Parenzo, le chiedo scusa se interloquisco con lei e capisco e affronto il suo dolore, però l'albergo che l'appartamento che dove andrà a abitare questo animale, chi è che glielo paga? Ma dove glielo stiamo pagando noi? Ma voglio dire, Don Virgilio Rigoldi, non bisogna ringraziarlo per il lavoro che fa, perché fa un'opera di reinserimento dopo un percorso detentivo di una persona che ha... Ma lei lo sa che questo Don Rigoldi che le dice lei quando arrivava lì in udienza non ci è permesso neanche di venirci a salutare? Lo sa questo lei? Non lo sa? Io lo conosco benissimo, non credo sia così, perché lo conosco, è un uomo di chiesa. Non ci dava neanche le spalle. Ma questo, guardi, non questo non conoscendolo ad accarezzarlo. La cosa incredibile, caro David, è che questo signore aveva un fine pena, che è già assurdo per l'omicidio di una persona, il primo marzo 2021. Ora, tu mi vuoi spiegare il motivo per cui dopo 5 anni e mezzo, con la morte di un vigile urbano, cioè dire di un ufficiale, di un rappresentante dello Stato, dopo 5 anni e mezzo uno deve uscire dalla galera ed andare a servizio sociale? È molto semplice, la vita di questo vigile nessuno purtroppo la può ridare, e quindi quella persona è stata condannata, ha scontato una parte della sua pena, 5 anni. Il fratello giustamente è incazzato come una biscia, scusami, e lo per questa roba, fratello, qua. Però si cambiano le leggi per cui una persona rimane in carcere a vita per qualunque tipo di reato. Se lei lo avesse di fronte, che cosa direbbe a questo signore, a questo re Minicoli? Sarebbe arrabbiato, è evidente. Savarino. Che cosa direi? Che cosa gli devo dire? Ma volete che io vi dica qualcosa di cattivo? Non no, quello dire. Che pensa, quello che lei pensa. No, ma non ve lo posso dire. Questo ci penserà poi, a sto punto mi affido solo alla giustizia divina. E poi ci penserà solo Dio poi. Visto che la giustizia italiana ha fatto schifo dall'inizio, ma lo ha condannato, non è che ha fatto schifo, perché lo ha condannato. Beh, 5 anni e mezzo, dai, ha fatto in galera. Ma l'ha condannato, quindi, ma non ne decidi tu le pene. Ma lei sta scherzando? Cioè... Ma lei sta scherzando? Allora, facciamo il conto che Niccolò Savarino era suo fratello. Cosa ne avrebbe pensato lei? Ma allora, non c'è un bel dubbio. Che Niccolò Savarino era discuto... figlio di qualche giudice o qualche politico. Cosa ne avrebbe pensato lei? Questo io dai, non credo. Noi diciamo cazzate, 5 anni e mezzo di un omicidio volontario. No, io le do ragione. Dopo 48 ore, questo l'hanno andato a prendere in Ungheria. Questo no, non ma ha avuto guardi, mai un minimo non penso ci sarebbe stata una pena diversa se fosse stato parente di un politico. Sicuro, no, sicuramente, sicuro, guardate. Questo non credo proprio. Hanno combinato quella pena dopo un processo. Hanno dato quella pena dopo un processo. Lo hanno condannato. Ora io capisco, non è che la devo convincere, perché non no, devo convincere è che nessuno. La legge italiana fa schifo, la questo sua è il indignazione punto. Io la capisco, lei è un parente, quindi è ovvio che è così, ma questo si è fatto una parte, 5 anni è passa. Molto poco, è stata ammazzata una persona, parte, 5 anni è stato ammazzato non siamo d'accordo, ma nessuno mette in dubbio un tutore della legge qua in Italia. Le leggi ci sono, vanno solo rispettate, e questi giudici devono far sapere fare il solo lavoro, perché se io sbaglio nel mio lavoro io vengo licenziato. Ma questi certo, qua fanno quello che noi vogliono e fanno continuo a fare quello che vogliono questi giudici. Scusi, lei ha fiducia ancora nella giustizia? No, mi sembra. Ma andate per favore, dai, non mi fate dire che cavolate. Grazie, arrivederci. Fa schifo la giustizia, fa schifo. Grazie, arrivederci. Grazie, salve. Ammazza un vigile urbano dopo 5 anni e mezzo è già fuori. Bastano solo i fatti. Non bisogna fare troppa filosofia, non bisogna fare le cose troppo complesse. La realtà è questa: 5 anni e mezzo fuori dalla galera. dopo aver ammazzato un uomo. Avete sentito la voce del fratello, che ovvio, è giustamente incazzato, ma nero, per forza, ma perché fratello... non vede la giustizia, non perché ma... è solo il fratello. Fratello, non la vedo nemmeno io la giustizia, chiedere, figuriamoci quello, il fratello. Il dolore di queste persone, ma non gli verrà mai, ma non cosa vuol dire? Ma pena, è anche che mi sembrava lucido, mi sembrava lucidissimo. Ma lucido. Scusami, facciamo un ragionamento più semplice. Neppure la pena di morte restituirà. Non è vero, ma non è vero. Se vedono la giustizia, giustizia, se vedono uno Stato che dà le giuste pene, la gente è più tranquilla. Invece l'hai sentito pena, incazzato, la incazzato con i giudici che hanno semplice. No, dai, ma su, cosa Dorri Goldi, poi Dorri Goldi, sei diventato una ruffa popolo. Ma che è ruffa popolo? Sì, una ruffa popolo, sei una ruffa popolo. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Fuccio, arossa! Viene da fanuccino in Domarco San Francesco, fuccio! Voci da Napoli, voci da Napoli, dialetti comprensibilissimi, ma in questo caso sì, in realtà, viene da fanuccinetta! Allora, ti faccio sentire la risposta che mi ha dato, sì, live Gianmarco Tognazzi alla tua idea delle ballerine. Sì. Il professor Gianmarco Tognazzi, ricordando, sì, anche il padre, Gimbo, anche il padre Ugo Tognazzi. Le ballerine che sono, secondo Gianmarco Tognazzi, l'antisesso. Io non sono, caro Gianmarco, molto fissato su questa roba qui, in fin dei conti. Poi l'importante è il piede, non tanto, cosa, non tanto l'involucro. Però l'eleganza di quella, sì, cosa. Sì, ma l'involucro non è importante. A me è vero, per me non è tanto differente. Vuoi mettere la ballerina con, no, quei tacchi, non lo so, alti, ma me, no, sei, in questo cose, caso devo dirti la verità, non me ne frega niente a me della, no, ballerina però, oppure dell'attacco. Importante il piede, quello sì, come sapete. L'involucro del piede non me ne frega una mazza. Beh, comunque Gianmarco, anche Gianmarco, quello, il professor Tognazzi, da questo punto di vista, sì, si è voluto esprimere live. Sentiamo, sentiamo. Io non posso sopportare questa dichiarazione. Le ballerine in assoluto, in ogni donna, anche la più figa del mondo, sono l'antisesso, sono come i moccassini senza calzini per gli uomini, una cosa che fa rabbrividire. Questa la prima, poi la seconda. Posso anche aggiungere che è una teorizzazione di Ugo da tempi non sospetti, che io ho assolutamente avallato ed è diventato un mio dogma. No alle ballerine, inteso come scarpa. Beh, questo l'avevamo capito tutti, ovviamente, la scarpa. Io non sapevo che il grande Ugo Tognazzi non amasse, no, non le so, ballerine. Evidentemente gli ha detto al figlio, non, beh, non è affatto, sì, un proclama pubblico. Magari c'è in qualche film, in qualche cosa. So, Ugo Tognazzi, grande amante delle donne, come si sa. Cioè, sì, certo, non si è fatto, beh, mancare, certo, niente da questo, nulla, punto di vista. Nulla. Però, le ballerine, amico mio, non gli piacevano. Io. Francesco da Matera, vai. Pronto, buonasera. Dimmi, Francesco, dimmi. Volevo dire a Parenzo, l'altra, sì, volta, prego, che buonasera. Buonasera, Parenzo. Grazie di aver chiamato. Prego, dimmi, Francesco, prego, vai, veloce, vai. Chiaro che non c'è bisogno, Parenzo. L'altra volta si dice il nome del partito. Non si sente un cazzo. Luca da Latina, vai, meglio, richiamiamo questo. Meglio, vai. Tanto Luca, era la solita cosa. Luca, dimmi. Meglio. Buonasera, io parlo da Latina e volevo intervenire in merito alla, vai, alla, vai, vai, al vigile urbano. Sì, sì, sì. Senti, se a me non sembra affatto giusto che un ragazzo, anche se deriva dal fatto che ha un'età giovane e per questo magari è uscito prima, dalla buona condotta, il fatto che sia giovane si presume che sia cambiato, questo dice la legge, no? Allora... Però io faccio riferimento dal territorio da dove vengo, vi faccio un esempio banale. All'epoca qui si chiamava ancora Littoria. E un fattore, Luca, delegato, che cosa vuoi dire? Andiamo a stringiamo, no, la cosa. Cosa vuoi sulla dire? Sulla certezza della pena. Deve essere la certezza della pena e, sì, dimostrare, rieducare chi è stato. Vabbè, non capisco. Pierluigi, sempre da Latina, vai. Nulla, Luca, nulla. Via. Pierluigi, vai. Pronto. Oh, ciao, Crucia. Senti, secondo me dovevano far uscire anche qualche anno prima, perché così facevo prima a passargli sopra con la macchina e ne facevo io i 5 anni, no? Che problema c'è? Pierluigi, scusami, un omicidio volontario mi danno 5 anni? Lo ammazzo, no, non gli io, hanno dato 5 anni, non gli hanno dato di più, credo 16 alla fine. Però è dopo uscito dopo 5 anni e mezzo. Ricordi, mi pento, sì, e mi danno 5 anni pure a me, no? Sì, in Italia un po' funziona così. In Italia, devo dire la verità, in Italia un po' funziona così. Cioè, questo è l'esempio buono che danno, anzi, cioè io non è che posso pentirmi anche il doppio di lui. Vado da Rory Goldi, prego ogni giorno, mi faccio le comunioni che vuole lui. Non dica stupidaggini superficiali. Ah, no. Non dica no, stupidaggini. È la verità. Io pento, ma posso pentirmi? Non mi posso pentire. Scusa, vuoi tirare giù con la macchina qualcuno tu? Ma il, quello che ha ammazzato il vigile lo vorrei tirare giù volentieri con la macchina. Senz'altro che sì, se fossi un parente stretto del vigile mi metterei, lo tirerei sotto con la macchina. E me, quanto mi danno? Quanto cazzo mi devono dare? Molto Beh, più di lui? Beh, 16 insomma, anni? Magari... Ne penso, arriva a 5. Questo in effetti è una buona legge questa. Mi permette cioè, di indicarmi. Vale il gioco, vale la candela. Il gioco vale la candela. Ok, il prezzo è giusto. 5 anni. Leonardo da Roma, però la vendetta, ciao, ciao. Ragazzi, non esiste. Leonardo, vai. Sì. Cioè, ciao, va bene incazzarsi per questa roba qua, ma la vendetta è una cosa ridicola, dai. È giusto incazzarsi, uno che esce dal carcere dopo 5 anni e mezzo, dopo aver ammazzato una persona, omicidio volontario, è una vergogna, basta, appunto. Non bisogna fare troppe discussioni, la legge, però il recupero, come dice Parenzo, e però poi meglio recupero, ma è io, una a me, puttanata, guarda, dai, su, no. Cioè, ma è inutile stare girarci intorno, è una puttanata, questa cosa qui va cambiata. Leonardo, vai. Bravo, bravo, bravo, lui, va cambiata. Sono d'accordo con te, devo fare ecco, beh, per una forza. Premessa. Io ho molta stima di Parenzo, voglio fargli una domanda. Se lui fa per provocare qualcuno, no, ma è convinto, ma lui è... No, così, ti posso assicurare. Allora è una cosa veramente grave ed è assurdo. Quello che ho sentito, un insulto. Ma guarda, posso dirti, uomo, Cruciani, qui sono serissimo. Parenzo, Cruciani potrà confermarlo. Io su questa cosa del recupero del condannato ci no, credo, ci crede, ci crede. Davvero, talmente tanto che ho visto progetti per il carcere, volontari Vabbè, che allora, lavorano. Leonardo, allora le faccio un'altra domanda, Parenzo, mi perdoni. Allora, se fosse stato il carcere italiano, non deve essere una discarica umana. Aspetta, dove tu Leonardo, butti vai, la spazzatura, la feccia dentro e poi chiudi la ma chiave. Ma cosa cazzo c'entra? Così, non così. Così, siete ma tutti più sicuri, più no, borghesi, no, più tranquilli, no, Parenzo, siete lì, dice abbiamo il carcere, l'abbiamo sbattuto lei, in galera, no, Parenzo, lo abbiamo sbattuto in galera, minchioni, si dite delle no. minchiate, che il dici? Carcere è un problema sociale che deve essere risolto, ma deve essere messo, non c'è niente da risolvere, cioè basta, no, basta fare carcere da risolvere, degne, creare progetti, investimenti, soldi, formare le persone che ci lavorano. Mi fai sentire Leonardo, mica stai facendo un comizio, ma di Leonardo non mi interessa. Perdoni, ho capito, non le interessa, d'accordo, va bene. No, ma è che dice una cosa talmente qualunquista e apparentemente ma banale e apparentemente ma di buon senso. Il tuo è qualunquismo, non il mio. Ma quale qual? Io dico semplicemente che chi è in carcere... Quando tu sbatti, come si dice spesso, sbattere sì, in galera, ma non no, con questa niente, frase non gergale. C'entra nulla. Leonardo, cosa vuoi dire? Finisci, dimmi. No, allora, il concetto mio è uno ed è semplice. Ma una concetto. Persona ha sbagliato, è un concetto, sì, Parenzo, come ne ha espresso tanti lei. Dai, è dai, un concetto, uno ha sbagliato, deve pagare. Caspita, non è novità. Fattibile la persona che è recuperata, chi lo decide, chi lo stabilisce, ha ucciso una persona. No, ma non, lei non ha capito, Enzo l'obiettivo della pena grazie. Enzo dalla provincia di Roma, Enzo dalla provincia di Roma, Enzo vai. Questo allora, è ragazzi, previsto dalla legge. Dimentichiamo una cosa importante, ecco, che questo ecco, maledetto Zingaro ha trascinato ecco. quell'uomo per 200 metri sì. sotto la macchina. Sì, sì. Ma siamo d'accordo che sia un criminale, ma nessuno sostiene il contrario. 5 anni ed è uscito, basta. Forca allora, la forca. Ma che forca? Crucifige. No, dico crucifige. Usa il latino. Uso il latino per dirvi la crocifissione. Ho capito benissimo qual è. Tu stai dando una mano forte a chi vuole l'Italia destabilizzata. Beh, adesso sì. questo mi sembra un po' troppo. Beh, hai rotto grave. Le scatole, ti abbiamo sgamato. Ma chi ha sgamato? Ti abbiamo cosa sgamato? Dopo 5 anni mandano fuori qualcuno, ma devono far incazzare la gente, vogliono la rivoluzione. Fermo perché Enzo, fermo, basta cazzate su sta roba. Fermo. Ed è venerdì, Crucia fino a notte. Non mi rompete i coglioni. Sono veramente disgustato da quello che conducete, ed è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. Venerdì, stronzone. La Zanzara. Parenzo, Sono Marco da Bergamo, Val Seriana, perché non vieni tu direttamente a mettermi il braccialetto per portarmi a Lampedusa? Ti aspetto, vieni tu direttamente, il numero di telefono c'è, ti do io l'indirizzo. Vieni, vieni, vieni, tu che sei contro gli italiani, tu sei contro gli italiani, tu sei a favore dei musulmani, così sei contro gli italiani e c'è gente come me che comunque per lavorare, per dare un po' di dignità in più alla famiglia e deve andare nel mare del nord a lavorare, deve andare a Shanghai, si deve fare un culo avanti e indietro per dare dignità alla famiglia. E poi ci sono persone come te che non danno dignità agli italiani, a gente come noi, hai capito? Vieni a mettermelo braccialetto, ti aspetto. Parenzo, è bello fare il garantista con il culo degli altri, ma penso che se ti toccano a te direttamente sarai uno dei peggiori vendicatori. E siamo ancora qui, caro Davide. Ormai due settimane ancora, ma noi siamo qui a battagliare nonostante. Ah, tu dici due settimane ancora di che devo subire telefonate, cose miserabili. No, telefonate di telefonisti. Ma due settimane di divertimento, due settimane di battaglia, che te ne importa della gente che chiama? Ma anche questi miserabili andranno in vacanza a un certo sì, punto, penso di sì, miserabili. Non so dove vanno. Andranno tutti a Chioggia lì, No, alcuni andranno secondo a Chioggia. Secondo me tutti quelli, guarda, questo volevo, è una riflessione che ho fatto tra ieri notte e stamane, che secondo me il 90% non degli ascoltatori, ma dei telefonisti di questa zanzara. Telefonisti, tu li chiami telefonisti. Telefonisti, sì, andranno in turismo non a Predappio, cioè faranno la spola tra Predappio e Chioggia, secondo me quella spiaggia no, lì. Ma non è vero, mica sono cioè, tutti fascisti, tu hai fascisti, la responsabilità dai. Di aver aumentato il PIL di Chioggia. Ma io sono contento quelli. Sono contento se il bagnino di Chioggia guadagna di più, cioè sono contento se quello stabilimento dovesse avere un boom perché è stato ingiustamente indagato, tartassato, massacrato, indagato, eccetera eccetera. Domenico Catanzaro, vai Domenico. E ti avverto che, come già sai, che i calabresi, che i calabresi sono molto incazzati. Non c'è motivo molto di essere arrabbiati. Devono essere felici che la loro terra venga arricchita da forze migranti. Sì, venga arricchita, forse non ha capito proprio niente Parenzo. Parenzo vorrebbe un'invasione di migranti in Calabria. Un'invasione. L'arrivo in massa. Presenza di anche di forze nuove, no? Che l'immigrazione sia l'unica risorsa economica positiva da far ricadere sul territorio. Sì. Allora? Quando invece si sa che quello di cui parla Parenzo è soltanto l'anello della catena dello sfruttamento dell'immigrazione. E poi su una regione come quella calabrese, che ha il 65% di disoccupati giovanili, si immagini una nave alla deriva che deve zavorrarsi con il peso anche dell'immigrazione. Ma che c'entra la nave alla deriva? Ah, la dice la nave. La metafora della nave alla deriva. Senti, il problema è molto semplice. Parenzo sostiene che più immigrati ci sono, più possibilità ci sono per la Calabria. Questo beh, è il punto. Anche questo, ma che si forze nuove. Per le cooperative che meglio gli immigrati dell'Andrangheta, dice Parenzo. Ma questo, gli immigrati, ma questo voglio dire una banalità, insomma, che non sanno cosa fare, bivaccano e sfociano in prostituzione e accattonaggio. No, può essere una grande occasione per lo Stato per dimostrare di partire, partendo proprio dalla Calabria, di fare un'integrazione possibile e portare forze nuove positive a una terra che insomma sicuramente ha i suoi problemi. Sono in base da minori che il giorno sono in giro, sono annoiati perché nei centri d'accoglienza dove le cooperative guadagnano i soldi loro si stufano e loro vanno girando le minori. Vanno inseriti nel tessuto sociale. Questa è l'integrazione di cui parla. Questa è l'integrazione che vanno create lì anche in Calabria, nuove professioni, mediatori culturali vanno create. Deve essere un'occasione anche per voi per mettervi in gioco, per creare nuove occasioni, nuove figure professionali. Questo è il punto. Te saluto, ciao Domenico, vai. Francesco da Catania, vai. Sì, buonasera, io vorrei parlare del fascio e di quel poveraccio di Chioggia. Dimmi. Ho un parente che ha una casa che sfortunatamente o fortunatamente ha una bella scritta fascista inneggiante. È l'aratro che fende il terreno, ma è la spada che lo difende. Ecco, un altro. Chissà se questo, ecco, mio parente dovrebbe demolire la casa perché inneggia al... Non lo so, rispondi tu, Parenzo, che sei specializzato in demolizioni. Ma nessuno vuole... No, demolizioni niente, sei, non è che voglio sei demolire... specializzato in queste cose, dai. No, no, no, no, no, io non voglio demolire proprio nulla, anzi anche gli elementi architettonici del fascismo, non ho mai sostenuto bischerate simili di buttarle giù. Io dico che chi invece inneggia quei cartelli a Chioggia nulla hanno a che vedere con il col territorio, non è che quello stabilimento fu fondato da Mussolini e quindi c'è, come dire, una lapide che ne ricorda la fondazione. Vabbè, di quella ma che roba. Deve fare il nonno? Sono che deve fare il nonno di Francesco? Ma il nonno, posso dire, il nonno di Francesco non me ne frega niente, come direbbe Feltri, non me ne frega niente. Il nonno, cosa c'è? Quella lì è una casa. Giudice perde tempo. Ma magari, scusa, è preoccupato Francesco, perché con i tempi che corrono, ma si alza, diciamo, un giudice la mattina e dice: no, quella roba lì magari va coperta. Ma non diciamo bischerate, ma nessun giudice potrà mai dire una roba simile come quella di cancellare la scritta Dux dall'obelisco oppure radere al suolo Latina. Nessun giudice dirà mai e prenderà mai una decisione simile. Queste sono bischerate per denigrare, denigrare una proposta. Quello di Chioggia ha dovuto togliere i cartelli. Ti credo, ma quei cartelli non è che erano dell'epoca del fascio, cartelli ma non erano del 22 quei cartelli, non erano del 38, sono cartelli messi da un bischero, anzi da un cretino. La cretinaggine non messi... è mai stato un reato, come sai, non è mai stato un reato la cretinaggine. Beh, dovrebbe... ma hai detto sono... giusto, magari è un qui cretino. C'è apologia di fascismo, non è che c'è soltanto cretinaggine. Magari è un cretino. Io toglierei il magari e metterei un punto esclamativo. Ma dai, toglierei il magari e metterei un punto esclamativo. Vabbè, ciao Francesco, ciao. Grazie, ciao. Quello che gli ha detto testa di cazzo al signor Fiano, gli ha detto è un ebreo testa di cazzo, ma non ha offeso la sua religione, gli ha detto solo è un ebreo testa di cazzo, basta. Come se avesse detto è un romano testa di cazzo, è un torinese testa di cazzo, è un veneziano testa di cazzo. Non ci vedo niente di strano, proprio non c'è proprio un cazzo da fa. Ah, Cruciani, ma battana a fanculo pure te. Te e mettete a braccetto pure Parenzo, capito? Anzi, mettetevi a braccetto tutti e tre, andate a fanculo tutti e tre. Adesso. Pronto? Ma perché mandi a fare in culo anche me? Ti mando a fanculo pure a te, perché quando che serve te ci mando pure a te. Ma non ho capito, scusa, perché mandi a fanculo me? Spiegami. Scusa, fammi parlare. Hai visto che è un vaffanculo simpatico, non è come quello marcato proprio che dica quello stronzo testa di cazzo. Capito? È un vaffanculo più gentile, diciamo, è un vaffanculo gentile. Tu poi sei di Roma, lo sai, no? Che vabbè, ma che c'entra? Che vaffanculo, oppure vaffanculo, vaffanculo, capito? Sì, c'è una diversa tonalità. Ma io non ho capito perché mi hai mandato a fare in culo. Però scusami un attimo, perché ho semplicemente detto che quella roba di Corsaro era una roba chiaramente contro un ebreo. Esatto. Ma quello, è contro un ebreo, non c'entra, dai. Niente, perché è come se io dico è un romano testa di cazzo, è un testa di cazzo romano. Che c'entra? Mica ha offeso la sua religione. Ma come? È ora da farla finita col suo ma fatto chi è sto che dici ebreo, attacchi la religione. E dipende come lo dici, no? Io questo, un testa di cazzo ebreo perché quello è ebreo, basta. Ma questo quanto è sciocco però? Eh? Quanto è stupido questo? Questo è, io sono sciocco quanto tu sei stronzo. Poi Cruciani, scusami, ho detto mille volte che io non ci voglio parlare. Ma quanto è stupido questo? Ma perché è successo? Ad esempio, vedi? Quanto è stupido questo? Lei è stupido, basta. Ho capito quanti difetti c'ha. Lei è solo stupido. Stupido, solo stupido. Cioè non è, anzi, tu sei stupido, è più grave. Sei cretino, sei imbediota, veramente è una persona. Capito? Tu per me sei tutto. Tu a me mi fai prendere una caterba di Malox, vedi, già mi sto sentendo male perché non ti posso proprio sentire. Ieri stavo a vedere una trasmissione che hai fatto insieme con la Meloni. Che sincero io, ci è mancato poco che te menazza la Meloni. Ah, certo. Quando che parlavate di. Mamma mia. Milano, poi avete parlato pure del stacchio, ma non mi ricordo che non la facevate parlare, capito? Perché certo. Proprio dai proprio il nervoso già quando che uno ti guarda in faccia. Lei è proprio stupido. Sta a sentire sto testa di cazzo. Quando che ti guarda in faccia stai sul cazzo a tutto il mondo. Capito? Oh, ma no, solo a me. Ma stai che sul loquio, cazzo che... a tutto il mondo stai. Senti, capito? Ma che si racconta? Senta, saluto, mo, Cruciani. Aspetta, come... che si racconta tra i tuoi amici camionisti? Ma cosa vuoi che si racconti? Ma tra, i tuoi amici, tra i tuoi amici non camionisti? Non offendere, perché guarda, senti. Io già ti ho detto una volta che quando tu hai detto una volta mi hai detto figlio di puttana. Non me lo ricordo. Non ti azzardare mai più. Parenzo, perché Parenzo. Io non ti ho mai offeso un tuo parente. Ma non, tua moglie, non so se ho usato, non so se ho usato questi riferimenti, qualche cosa. E mi dici qualche cosa nei no, quella frase miei, non credo di averla detta mai. Io vengo a cercare per davvero, te apro. Mamma mia, che paura. Brrr, che paura. Che paura. Non faccio, credo di avere. Quando che sei sceso a Fabbro. Allora sei credo... servito, crentezza di cazzo. Non credo di aver scusami, mai usato scusami, questo tipo di linguaggio. Quando che hai detto che sono un figlio di una puttana, capito? No, ma è un'espressione. Figlio della vacca smandrappata rottanculo. Non ho mai detto questo. Ho detto non so di chi sia figlio. Fermo, lei, ma possiamo immaginarlo tutti. Fermo, ma perché? Ma perché? Ho detto semplicemente non so. Ho detto semplicemente non so di chi sia figlio lei. Ma lo possiamo immaginare tutti. Un cazzo, capito? Sì, ma ho detto con grande pacatezza, vede, tu sei un veda, bradipo, sei come zitta, capito? Senza urlare. Con la mia tradizionale un foglio di carta velina tradizionale io ti apro mia... come un abbaccio ti apro. Allora io fermo un attimo io... e tutti gli autogrill prima stavo alla stazione Termini di Roma nei bagni c'era scritto chiama il numero e c'era il tuo negli autogrill d'Italia negli autogrill c'è il tuo numero negli autogrill scusa camionista amico mio sei mai andato aspetta sei mai andato a farsi lunghi e bendi. Ci vai ogni tanto a puttane o no? Io? No, puttane ci andavo tanti anni fa. Ma ormai adesso non ci vado ma più figurati perché l'ho le donne. Non te regge la pompa? Non te regge la pompa? No, me regge la pompa. Sì, non te regge. Da che ciò, guarda, faccio pure troppo. Sei molto fascista tu o no? Eh? Sei molto fascista? Ma è molto stupido, no, non fascista. Sono molto fascista. È solo stupido, molto non è fascista. Ma non sono molto fascista. Il fascismo aveva anche una sua, come dire, no, epica. Questo è semplicemente stupido, poverino. Non fa tanto lo stronzo. Ma perché sei così stupido? Ma come si vive da stupidi? Mi puoi raccontare come si vive da stupidi? Come si vive da stupidi? Come si vive? Come si vive? Come si vive? Come si vive? Ma come si vive da stupidi? Come si vive? Come si vive da stupidi? Ehi tu, sì, ce l'ho proprio con te. Te, testa di cazzo che stai ascoltando. Tu che chiami per dire non si può parlare male dell'Islam. Io vado in procura, ti denuncio Cruciani. Ti denuncio Cruciani. Tu stai facendo il gioco di quelli che si fanno esplodere, di quelli che seminano il terrore. Lo sai perché? Perché vogliono un paese come l'Arabia Saudita, dove non si può parlare dell'Islam. Dove tutti devono essere unificati nel pensiero. Io non voglio vivere in un paese così, voglio vivere in un paese libero. Dove se c'è un papa che dice una stronzata, devo poterlo dire. Dove se c'è un islamico di merda che si fa saltare in aria, lo voglio poter dire. Lo voglio poter dire. Io voglio vivere in un paese libero. Voi che volete andare in procura, invece, volete un paese tutto uniformato. E allora, se non vi piace questa trasmissione, cambiate canale. Cambiate canale. Cambiate canale. La zanzara. Cruciani l'escluso. La zanzara. Claudio Giardiello, ammazzato il giudice ergastolo, questo cretino di Rom ammazza un poliziotto volontariamente, lo mette sotto, 5 anni già fuori, ma vaffanculo dai, ma vaffanculo, ma che Italia di merda. Buonasera, quando quello lì a Roma ha dato un pugno all'infermiera romena è uscito ugualmente presto, nessuno si è rivoltato. Comunque, che quello che è Zingaro, se hanno fatto un crimine, bisogna restare lì in galera, a marcire lì, tutti e due. Però per quello lì non vi siete rivoltati così tanto. E ti sbagli, amico mio, e ti sbagli. Ma io voglio riprendere una strepitosa discussione con un personaggio. Questo personaggio si chiama Castagna, Matteo Castagna, di un'associazione ultracattolica, si chiama Christus Rex di Verona. Cosa succede da quelle parti? Succede che ci sono preghiere e petizioni contro il concerto di Marilyn Manson a Villa Franca di Verona. È un concerto che si terrà il 26 di luglio. Marilyn Manson è un personaggio molto discusso del mondo del rock, è un personaggio che ha fatto parte di alcune associazioni sataniste, o comunque hanno detto che era satanista. Un cazzone della musica, questo è il punto fondamentale, ma chi se ne frega. Queste associazioni addirittura hanno promosso delle petizioni online per annullare il concerto, addirittura un appello al sindaco di questa cittadina, Villa Franca di Verona. Tra i promotori c'è questa associazione, il capo di questa associazione che si chiama Castagna. Sentitelo qualche giorno fa qui alla Zanzara. Senti, ma perché vi opponete a questo concerto di Marilyn Manson? Non me lo spieghi? Perché quello che dice, quello che fa, quello che canta, quello che rappresenta offende gravemente il cattolicesimo, e allora? La Madonna, i santi, sì? Brucia la Bibbia. A parte che non mi risulta che bruci la Bibbia. Poi però, proseguendo la conversazione con questo Castagna, Castagna dice: l'adulterio è un peccato mortale. Tu sei sposato? Sì. Quanti anni hai, scusa? 41. Per te non ho capito, per esempio, fammi capire cosa significa essere cattolici tradizionalisti. Cioè, l'adulterio, cioè il tradimento, secondo te, cosa dovrebbe comportare? Cioè, è concepibile nella tua idea di mondo? L'adulterio è un peccato, sì. È un peccato mortale che va confessato. E secondo te dovrebbe essere punito dalla società? Dovrebbe essere punito innanzitutto da Dio. Vabbè, per chi non è pentito, sì. Ma chiaramente c'è il sacramento della penitenza e della confessione, sì. Per chi è sinceramente pentito. E d'accordo, ma la società dovrebbe punirlo? Oltre a pentirsi può ravvedersi, anzi deve ravvedersi. L'adulterio, secondo te, dovrebbe essere punito anche dalla società civile, cioè dal codice civile? Nella tua idea, lo era fino a poco tempo fa. E perché no, dici? Cioè, perché no? Cioè, lo era. Una in multa. Diciamo che in uno stato confessionale, sì? Come piacerebbe a me, perché sì? A me piacerebbe uno stato confessionale, dovrebbe essere punito. All'interno di uno stato confessionale, sì. Sicuramente lo stato confessionale lo punirebbe. Mia moglie lava i piatti. Dunque, punire l'adulterio. La moglie lava i piatti come ogni buona moglie. Ti abbraccio fortissimo. Dov'è tua moglie? La entro vicino a te? No, non è qui vicino a me. Adesso sta facendo, sì, quello che ogni buona moglie dovrebbe fare. Cioè che fa? Cioè, sta lavando i piatti. Cioè, lei li lava, tu non li lavi? No, io no. Tu no, li lava solo lei? Sì, li lava solo lei. Chiamiamolo, dai, Davide, chiamiamolo, basta, mi sono rotto i coglioni. Chiamiamo di nuovo sto Castagna. Pronto? Castagna. Sì, buongiorno. Sono Cruciani, come stai? Sono Cruciani. Ciao Cruciani. Come andiamo? Bene, grazie. C'è una cosa fondamentale che voglio chiederti. Quante firme avete raccolto in tutto allora? Sono oltre 2700. 2700. Ma cosa avete contro il signor Marilyn Manson? Noi siamo contro le argomentazioni, se così si possono chiamare, o meglio i deliri farneticanti, sì, satanici, sì, di questa persona. Sì, d'accordo. Lui è un ex satanista, è un personaggio eccentrico, è un cantante particolare. Non mi risulta. Vabbè, d'accordo, ma chi se ne frega di Marilyn Manson? Cioè, non a è... me me ne frega. Ma che cos'è, l'anticristo? Che cos'è secondo te? No, no, no, lui è una persona blasfema che oltraggia la religione cattolica, che ha bruciato la Bibbia, che oltraggia sistematicamente la nostra religione. Vabbè, ho capito, ma fa un concerto, non è che fa il capo politico, no, di qualcosa. No, lui manca di rispetto, lui manca di rispetto. Ho capito, oh, ma signori, se uno fa uno spettacolo di questo tipo e la gente va e paga il biglietto, ma chi se ne frega? Cioè, uno paga il biglietto per vedere anche le peggiori follie, come uno guarda i film porno. E tu li considererai una follia i film porno, però nessuno li vuole proibire. Tu li vuoi proibire i film porno? Forse per me sarebbero tante cose che io proibirei. Cioè, tu la pornografia la proibiresti? Certo. Cioè, vorresti chiudere tutti i siti porno? Certo. Tu non hai mai visto, quanti anni hai, scusami? 41. Questo signore qua, che è un ultracattolico, si può dire ultracattolico o cattolico solamente? O uno è cattolico o uno non è cattolico. Beh, secondo te il Papa, per esempio, l'attuale Papa, è nel solco della tradizione oppure è troppo moderato? No, non è nel solco della tradizione. Beh, come non è dice cattolico. Lui? Non è cattolico. Il Papa non è cattolico. Il Papa, ecco, allora, un momento. Mettiamo ordine, perché aspetta, io sono stanco. No, aspetta. No. So che sei stanco. No, sono stanchissimo e il cardiologo mi ha dato un Ma come nuovo... fai a dire che Bergoglio non è cattolico? Parenzo, il cardiologo gli ha prescritto una nuova medicina per il cuore. Non mi faccia incazzare, amico Matteo, perché il cardiologo mi ha mandato una carta dove mi ha detto che non mi posso arrabbiare. Come fa lei a sostenere... Allora cambi mestiere. Questo pure è vero. Fatto un mestiere più tranquillo. Questo pure è vero, devo dire la verità. Ma io sento certe bestialità da 6 anni a questa parte, in questo luogo che si chiama Radio 24, che veramente, infatti il cardiologo mi ha detto stia calmo stasera, dico va bene, perché la pressione, però quando senti questa sento cosa, sento il signor Matteo di Rex, non so, no, vabbè, Christus Rex, non è Christus solo... Rex, benissimo, Christ, ma questo non c'è, dire nessun che problema il Papa non è... beh, io capisco che lui faccia che fatica a pronunciare la parola Christus, voglio dire, Cristo è una persona storica, è certo. Il figlio di Dio, sì. È la via, la verità, ma la vita, non ci mancherebbe altro. Quello che però mi manda ai matti è lei, signor Matteo, di cui Castagna. Io fino a Castagna, conoscevo Alberto Castagna. Vabbè, è morto quello, coraggio. Vabbè, lui conoscevo di Castagna, questo Castagna quando lo conosco. Beh, mi manda ai matti sentire questo signore che dice di essere, dice peraltro... Che non mi conosce? Eh beh, non ti conosce. Ma me lo conosco, non me ne frega neanche niente. Parenzo, tu mi conosci bene, perché abbiamo già litigato a Telelombardia, abbiamo litigato a Canale Italia... Abbiamo già litigato più volte, non far finta di non conoscermi. Vabbè, allora evidentemente non far finta. L'avevo per fortuna cancellata dalla mia, dalla mia memoria. No, vabbè. Probabilmente lei è uno smemorato, io non sono uno smemorato. Come lotta, il Castagna. Il fatto che lei dica che il Papa non è cattolico, questo no, mi manca... che non è Papa. Non è Papa, è cattolico. Un rabbino? Che cos'è? È un impostore. Ma non si può tollerare che lei dica che il Papa è un impostore. Perché? È una vergogna. Perché è un impostore? Questo signore è una vergogna. Che ti importa a te che sei ebreo? Dice la dottrina di sempre di Santa Madre Chiesa. Però io voglio capire una cosa: il divorzio. Ma chi è sto Castagna? Il divorzio. Come la mettiamo? Dobbiamo eliminarlo allora? Io parlo da cattolico. Sì, d'accordo. Il divorzio non è concepibile. Il cattolico è contrario al divorzio. È contrario al divorzio. Non parliamo dopo dell'aborto, no? Nemmeno ne parliamo di quello, no? Beh, certamente noi non siamo per l'assassinio. Cioè, l'aborto è un assassinio. No. L'aborto lo consideri un assassinio. L'aborto è un omicidio. È un omicidio, benissimo. Allora, andiamo oltre. Il sesso anale in una coppia può esistere? Il sesso anale non può. Tu non hai mai fatto sesso anale in vita tua? No, è contro natura. Cioè, il sesso anale è contro natura. Tu con tua moglie non hai mai praticato questa roba qui? Ma questo... No. Mai? Perché? Cioè, perché lo consideri contro natura? Perché evidentemente in quel modo non serve per concepire bambini. Ho capito, ma serve magari per il piacere. Cioè, la gente si inchiappetta per il piacere. Cioè, sia uomo con donna, sia uomo con uomo. Legittimo. Ma guardi, io ho una concezione molto differente. Guarda, tu hai una concezione piuttosto animalesca del rapporto. Perché il sesso anale è solo una cosa animalesca? No, tu hai una concezione animalesca del rapporto sessuale. Io no. I gay cosa sono per te? Sono degli esseri umani. Quello, cioè, grazie. Alcuni di essi sono cattolici. Sì, succede anche questo. Si astengono da avere alcun rapporto sessuale in quanto contro natura. Si astengono. E quelli che fanno sesso cosa sono? Malati? Quelli che fanno sesso peccano. Sono dei peccatori. Dei peccatori. Nella tua mondo ideale sempre andrebbero puniti. Nel governo di Dio dove vanno i gay? Sicuramente dovrebbero andare a confessarsi, pentirsi e ravvedersi. Pentirsi. Ma anche a guarire? guarire. Guarda, io non so se ci siano delle cliniche per farli guarire. Se esistessero, sì, un tentativo io lo farei per loro. Beh, sì, perché sa no? Che tentativo deve fare lei? Quello di seguire le cure dei medici, perché è una cosa che lei non ha fatto. L'unico tentativo che lei deve fare è quello di seguire le prescrizioni che gli psichiatri da tempo le hanno dato. E vedo sa, che lo lei sa che ci sono, appena stato. Sì. Ecco, vedi? Appunto. Sono appena rientrato a casa. Senza e l'unica successo, cosa che mi ha prescritto, sì, è stata quella di non ascoltare le cretinate che, sì, dicono Cruciani e Parenti. Ma no, perché, ecco, perché quello è impossibile. Quello è impossibile. Vabbè, senti, vabbè, ma scusa, vabbè, ma uno come te si masturba? Vada, Castagna, uno ho rapporti con mia moglie. Ma la masturbazione, sì, è prevista o no? È dispersione del seme? No. Che cos'è la masturbazione? Dispersione del seme. Pure la masturbazione. Ma in vita tua te la sarei fatta una pippa, sì o no, Castagna? Eccola. No. Mai fatto una pippa? 41? No. 41 anni mai fatto una pipa? No, è impossibile! Io vado con le donne! Ma non è impossibile! Io sono sempre andato con le donne! Io ragazzi, mi voglio arrendere di fronte a questa cosa qua. Cioè, uno a 41 anni non si è mai fatto una pipa! La classica sega davanti a un film porno a 14 anni! Mai fatto, mai! No! Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la posso fare, cioè, non ce la posso fare. Hai trovato qualcuno di normale. Ma non è, non sei normale, uno che non si è mai fatto una sega a 41 anni, non è normale, Castagna. È normale perché io sono sempre andato con le donne. Sì, ma se io dovessi scegliere adesso tra Marilyn Manson, che pure non mi piace per alcune cose, devo dire, il signor Marilyn Manson e il signor Castagna, Parenzo, tu chi sceglieresti? Tra Marilyn Manson e Castagna? Ma senza ombra di dubbio Marilyn Manson, ma senza neanche aspettare 5 minuti. Io non avevo mica dubbio. Hai figli? No. Non hai figli, se tuo figlio fosse omosessuale che faresti? Cercherei di educarlo cristianamente di insegnargli ad astenersi. E lo manderesti da un medico magari, così? Se ci fosse davvero una clinica... Lo manderesti? Lo manderei a vedere se si può fare qualcosa. Se si può però inizia a curarsi anche lei, si fidi, guardi, perché mi pare che la situazione peggiori di minuto in minuto. Anche va bene, lei. Castagna, au revoir, au revoir. Au revoir, addio. Au revoir, statemi bene, mi raccomando. Arrivederci. Convertitevi, credete al Vangelo. I cattolici tradizionalisti, ci faccio una bella preghiera. Ci convinca con una preghiera. Ci convinca con una preghiera. Questo lo può fare solo Dio, ma voi siete dei casi disperati. Parenzo non ha bisogno. Ciao. No, nessuna preghiera, per carità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Se questo spot pesasse 100 mega e la tua azienda avesse una connessione Eolo, l'avresti scaricato 3 secondi fa e io potrei finalmente andarmene a casa. Ok, era buona, no? Alla prossima! E invece devo stare qui a inventare frasi per riempire il buco perché la tua connessione lenta non l'ho ancora scaricato, non è professionale. Dai, passa Eolo, avresti più tempo per fare altro. E anche io. Fai crescere la tua azienda ovunque sia, anche in provincia, con connettività da 30 mega a 1 giga. Eolo, le migliori soluzioni internet per la tua impresa. Scopri di più su eolo.it. Abbiamo pensato alla nuova tipo 5 porte. Poi abbiamo pensato a un prezzo incredibile. 13.750 euro. Ma non bastava. Così abbiamo aggiunto tecnologia, sicurezza e un bagagliaio al top della categoria. Nuova tipo 5 porte, completa di tutto a 13.750 euro. In più, solo a luglio, 1.200 euro di extra bonus sulle vetture in pronta consegna. Iniziativa valida in caso di permuta o rottamazione. Info e condizioni su fiat.it. Fiat Tipo. Ci vuole poco per avere tanto. Breve guida alla gestione d'impresa 2017. Oggi manager e imprenditori hanno a che fare anche con le responsabilità aziendali per lo smaltimento dei rifiuti. In questo campo ancora poco esplorato ci sono quattro mosse vincenti. 1. Rispettare le normative. 2. Scegliere fornitori indipendenti. 3. Tenere tutto sotto controllo. 4. Affidarsi a un professionista di fiducia. Un esempio è Omnisist, azienda che da 20 anni si occupa di gestione dei rifiuti in modo indipendente. Non ha impianti o trasportatori propri. Seleziona il meglio secondo le tue esigenze. Come cliente Omnisist hai un sistema di tracciabilità totale di ogni smaltimento, da consultare quando vuoi. E in più un'area manager fisso che ti segue H24. Puoi anche affidare la gestione rifiuti in total outsourcing a Omnisist con la formula Total Relax. Richiedi un'analisi tecnico-economica gratuita su omnisist.it. Omnisist, il valore della responsabilità. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina a Bergamo, in mezzo al verde. E io proprio me ne sbatto dei limiti, ne arrivino quanti ne vogliono. Chiesto al capo di una cooperativa che gestisce i migranti come vanno gli affari, mi ha risposto tutto gasato: vedo nero, ho 67 pezzi. Crescenzo, questa è la gente che gestisce i migranti. Ora stai ricominciando il tuo sport preferito, lo sputta Napoli, sei proprio una merda, Cruciani, tu e questo coglioncello che sta a fianco, per non parlare di quell'altro merdone di Vittorio Felti. Ma l'anno scorso, quando bruciò tutta la Liguria, cosa avete detto? Siete delle merde. Non volete sentire in faccia la realtà? Questa è la mia risposta all'ascoltatore napoletano. Non volete sentire in faccia la realtà? Che ve ne frega di quello che succede in Liguria? Pensa a quello che succede in Campania. Però bisogna dire una cosa, oggi è il giorno del trasferimento di un giocatore molto importante, Leonardo Bonucci, dalla Juventus al Milan. E sui cosiddetti social, sono arrivate minacce a Bonucci, alla sua famiglia, insulti al figlio, l'augurio di morire di cancro al figlio. Vi dovete vergognare, fate schifo. L'anno scorso i tifosi della Juventus ridevano del fatto che alcuni napoletani insultavano Higuain per il trasferimento alla Juventus. La stessa cosa sta avvenendo oggi per il trasferimento di Bonucci al Milan. Moltissimi tifosi della Juventus, almeno quelli che si esprimono sui social, sul web, ma erano gli stessi prima che insultavano Higuain per essere scappato da Napoli, per essere andato via da Napoli. Moltissimi tifosi della Juventus insultano a sangue Bonucci per questo trasferimento. Ma che cazzo ve ne frega? Ma che ve ne frega di quello che fa un giocatore che per soldi, per stimoli in più, perché ha litigato con quell'altro? Ma chi se ne frega? Fatevi i cazzi vostri. Non è che appartiene a voi, appartiene a se stesso. Fa le scelte che vuole, le scelte individuali di guadagno, di successo, di fama, di stimoli, di ambizioni. Fatevi i cazzi vostri. Cosa insultate la moglie? Così almeno non avremo più questa cafona in giro, non avremo più questa cafona tra noi. Insultate il figlio, ma andate a fare in culo, che siate della Juventus, del Napoli, che insultate Higuain. Fatevi gli affari vostri, state dentro casa, non rompete i coglioni ai giocatori che fanno scelte individuali, scelte personali. Che ve ne frega, mica è proprietà vostra. Siete patetici, siete. Ragazzi, risentiamo un po' di follie di oggi, risentiamo un po' di follie di oggi a partire dalla signora Chieng. Voglio fare un po' di resume. Follie di oggi, la Chieng che dice accogliamoli tutti, mentre stanno arrivando altri 10.000, accogliamoli tutti, Chieng. Quando io guardo quelle persone e rispondo con quella frase, è chiaro che è come se io volgesse lo sguardo da un'altra parte. La questione oggi è un'altra: cosa facciamo di questo? Io così risponderei: accogliamoli tutti. Chieng, accogliamoli tutti. E poi facciamo un po' di cinema di circo a 5 stelle in Parlamento, partendo dal signor Petraroli, parlamentare 5 stelle. Gli italiani lo prendono nel culo, questione banche. E devo essere sincero, perché se un ministro tedesco dichiara questo, ci fa capire che i cittadini italiani sicuramente la prenderanno nel culo. Onorevole Petraroli, ma veramente, guarda. Perché gestibili da chi? Non c'entro, qual è il problema, scusate? Onorevole Petraroli, onorevole Petraroli, la richiamo ad usare. Sì, allora, per favore. Non lo so, ditemi per voi. Favore, non siamo all'asilo, Sibilia, sempre 5 stelle, avete rubato tutto, prendetevi pure questi e distribuisce denaro. Avete rubato tutto fino adesso, vi siete rubati fino all'ultimo centesimo dei cittadini italiani, avete rubato le loro azioni, avete rubato la loro voglia di partecipare, avete rubato la capacità di fidarsi del sistema bancario. Allora sapete che vi dico? Prendetevi pure questi, sono gli ultimi che sono rimasti. Onorevole Sibilia, colleghi del gruppo del 5 Stelle, sono gli ultimi. Onorevole Sibilia, onorevole D'Incà, onorevole Caso, onorevole Busto, onorevole Micillo, onorevole Romano, Milano. Per favore, smettete di lanciare onorevole Di Benedetto, onorevole Ruocco, smettete onorevole Frusone, smettete di lanciare volantini in aula. Onorevole Sibilia, ha concluso il tempo. Onorevole Romano, basta. L'onorevole Tofalo, vigili del fuoco lasciati soli senza mezzi, si sta parlando di Napoli ovviamente, della Campania, delle fiamme, mentre De Luca distribuisce fritture di pesce. Ma non c'entra un cazzo, dice, fritture di pesce non distribuiva. Non attaccate il governatore del mondo, dai. Lasciamo i nostri vigili del fuoco a fare le collette senza mezzi e senza strumenti, mentre gli animali muoiono, mentre le fiamme entrano nelle case, e Vincenzo De Luca sta a distribuire fritture di pesce e a cercare scranni per i figli. Noi ci incazziamo, e come? E non può usare un linguaggio più appropriato, deputato, per favore. Presidente, per favore. Presidente, mi scusi. E a proposito di circo a 5 Stelle, ragazzi, la figura di merda di Di Maio, che ha detto praticamente di avere procurato 3 Canadair dalla Francia grazie al suo intervento per le fiamme, e poi smentito clamorosamente dai francesi mai contattati da lui. Vabbè. E per tipi da zanzara, per te, aspettate, Ivo da Verona, Marco da Monza, Massimo da Genova, Antonello, sono lì, adesso arrivo. Per tipi da zanzara andiamo con Fabrizio da Milano, vai. Tipi da zanzara. Ah, vai Fabrizio, vai. Fabrizio. Ciao Giuseppe. Dimmi Fabrizio. Ciao, c'è anche lui, la mezza sega, Donnarumma. Ma che c'entra Donnarumma? Scusa, quello Donna Rumma, quello manco... Parenzo è Donnarumma, lui è traditore del popolo italiano, l'altro del Milan, sono più o meno qua. Ma comunque... che tu sei pure un ultra del Milan, sei Fabrizio. Ultra del Milan, ho 1000 tatuaggi del Milan, non ultra. Cioè sei pure oltre a essere, se non mi ricordo male dalla voce. Te l'ho detto, metà corpo tatuato fascista e metà corpo del Milan con le bandiere italiane, numero uno. Ieri per caso Parenzo, dopo mangiato, mi è capitato di girare sulla 7. Sì. Ma sei veramente una roba imbarazzante. Tu sembri Mr. Burns, il capo di Homer Simpson, uguale, bianco, con sti occhiaie. Telese sembra Hitler uscito dal McDonald's. Veramente, avete fatto una bella definizione. Nausea, ragazzi. Cioè, con quella faccia vatti a fare una lampada, vatti a mettere un rompe di occhiaie, vai in palestra, fai qualcosa. Sì, perché io nonno lavorando con la testa. Ma anch'io studio, no, tu non lavori con la testa, tu lavori con un'altra cosa, che è una che è un organo riproduttivo. Con le troie, col cazzo lavoro. Comunque, veramente, vai in palestra. Tu lavori con quello. Ma questo è un salame. Avete fallito dappertutto. Sai di dove sono? Ma avete chi? Di voi, di sinistra. Io sono di Sesto San Giovanni, la Stalingrado di sto cazzo di comunisti. Ma l'abbiamo conquistata dopo 72 anni con la Chitò. Sì, anche a Sesto San Giovanni vi abbiamo cacciato. Come allora vietiamo il fascismo? Giustamente, puoi fare una legge contro, lo fai anche contro il comunismo, perché eccolo lì, questa ragione, ecco la stupidata, non ha tutti torti, il ciocchetto che fa Parenzo mi sta cuccato, quello che dice ma i comunisti in Italia non l'hanno ucciso, va bene, allora io da domani hanno firmato la Costituzione, allora io da domani mi metto, hanno firmato quella cosa che si chiama Costituzione, in Italia non hanno fatto attentati, ma che cazzo vuol dire? Ma abbia, come dire, la cortesia, quando ha chiuso con la zanzara alle 20:55, mi dica, signor Parenzo, vada, prenda il suo palestra, ecco, le dico una cosa, prenda il suo telefonino, prenda il suo telefonino, veramente, dai, no, ma sua moglie è felice lo stesso quando ancora mi vede, faccia io così sono, io non ce l'ho, io faccia così, te l'ho già detto, a me piace andare alla sì, ma lei è una persona schifosa. Tu per scoparti una donna la porti fuori all'aperitivo, la porti a mangiare, la porti a motel, speso 500 euro, al io con 70 euro mi faccio fare al un motel. Bel pompino e poi non la devo neanche salutare al motel. E me ne vado via. Ma motel, che Italia è quella che frequenta i motel? Ma che roba è? Il motel. Il motel. Che tatuaggi ha? Ti dirò, allora, per esempio il braccio c'ho con noi contro di noi. C'ho un po' tutte svastiche? Svastiche? No, svastiche no, ma io te l'ho detto io. No, ma fasci, Mussolini? No, io fascio ce l'ho, c'ho lì, c'ho il fascio. Denunciatelo! Denunciatelo! Denunciatelo! Denunciatelo! Via Arno 42 a Sesto San Giovanni. Venite, c'ho mezzo busto di Mussolini. Dormo con sopra il letto, c'ho il suo posto. E così quando mi sveglio lo vedo. Qual è il problema? Ma qual è il problema? Tipi da zanzara. Dai, denunciami Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacco i coglioni, hai capito? Allora, Massimo da Genova, poi Giulia, altri, vai, forza Massimo, vai, vai, coraggio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, caro. Allora, io chiamavo riguardo l'omicidio del vigile. Sì, sì, 5 anni e mezzo e quello già fuori dal carcere, vergogna, 5 esatto. anni e mezzo è già fuori dal carcere. Esatto, io volevo raccontare molto velocemente una mia esperienza. Io sono stato... Sei stato? Sono stato preso in macchina con una donna che aveva 50 grammi di eroina nel reggiseno. Mi hanno dato 3 anni che mi sono fatto... tutti. No, capito, aspetta Massimo. Chiariamo. Aspetta un attimo, chiariamo una cosa. Allora, tu eri in macchina con una che aveva 50 grammi di eroina? Sì, esatto. Ma scusa, tu lo sapevi? Io lo sapevo. Siamo sicuri che non lo sapevi? No, siamo sì che non lo sapevo. Cioè, non sapevi tu stavi in macchina con una che c'ha 50 grammi di eroina, ma chi cazzo frequenti, amico mio? Ma questa aveva, io avevo, guarda, 32 anni, questa ne aveva 56, ma... poteva essere mia madre quasi. E che stai facendo, scusi, in macchina con una che aveva 50 grammi di eroina? No, questa qui era una mia amica, cioè era, vabbè, amico mio, però era la moglie di un mio amico. Ho capito, non è che può venire a raccontare a me, cioè tu stavi in macchina, tu avevi 32, lei 56 e una con una che aveva 50 grammi di eroina, dai, su. Sì, si è fatta dare un passaggio a Milano, mi ha detto, ah, devo andare per vendere dei terreni a dei sardi che ho, dei terreni in Sardegna, ti do 50 euro se mi accompagni. Ci hanno fermati, mi hanno accollato a me... pure la roba sua. Io mi sono preso 3 anni, me li sono fatti e non ho ucciso nessuno, ok? E me li sono fatti tutti. Cioè ti sei fatto 3 anni per quale reato? Non ho capito, il reato qual era? Il reato era... se non lo sai tu. Come si dice? Cioè favoreggiamento alla ti sei allo fatto spazio. tre anni perché tu addosso non c'avevi un cazzo, eroina, no, cocaina, no, non avevo un cazzo assolutamente. Ma no, assolutamente, figurati, cioè per sbaglio, per essere capitato in una mano, questa qua che ci sta a fare nella macchina tua, scusa, spiegami. No, ero io nella macchina sua perché lei mi aveva chiesto, visto che lei non aveva la patente. Cioè tu non sapevi che questa qua dal marito che non poteva. Cioè non sapevi che questa qua non la macchina. Tu mi guidi, ti do 50 euro se mi accompagni perché io devo. Ma tu ti sei mai fatto di eroina? Ti sei mai fatto di eroina, sì o no? No, mai, assolutamente. Mi sono fatto delle canne, ma mai eroina, assolutamente. Vabbè, ciao Giulia, provincia d'Imperia, Giulia. Ciao, senti una cosa, io volevo cominciare così perché poi l'argomento era un altro. Innanzitutto io sono juventina da tutta la vita e posso dire una cosa, oggi mi vergogno perché quella gente lì che ha scritto quelle cose fa schifo, sì. Fa schifissimo, sono delle merde, vanno solo nella fogna, non sono né juventini né sportivi, sono solo dei gran pezzi di merda. Poi... a parte questo, io volevo intervenire su quel gran coglione di Rex, come cacchio si Christus chiama? Christus Rex Castagna, sì, quello. Ecco, allora, perché quello tu che gli dice hai che chiesto. Non si è mai fatto una sega in vita sua, sì. Esatto, e tu gli hai chiesto se non faceva sesso anale. E lui ti ha detto di no, perché si fa sesso per concepire. Ma poi alla fine ti ha detto che a 41 anni i figli non ne ha. Vabbè, ma allora, questo detto, non l'ha mai fatto. Sì, però Giulia, questo può essere pure che non vengano i figli, eh. Cioè succede tante volte che non vengano i figli, cioè sinceramente ma da figure, questo. Ma figure, ma adesso è un cretino fuso totale. Ciao Giulia, ragazzi, a lunedì, ciao. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterceli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Sono Richard Benson. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda, servo.